accompagnami si può. Che la via è assai scura. Strignami man, che non tenga paura. Dai si voto vien, dai si voto vien, dai. Io t'arrapari, io t'arrapara. Non ne sangue ma bene.